Drommi, drommi. Aspetta, a me di drommi, drommi. Peggiamente, cazzo, boh, è torre sul luogo. Torre, dai giro. Ci sono che dare il giro, sì, si sta goia. E ho chiamato 4 volte, non mi ha risposto. Allora mi stavo guardando la TV, la partita. Oh, ho sentito nulla, forse hanno chiamato che andrò fuori. A gente che non verrà nessuno, allora mi sono andato a fuori, però così era sì. E allora non hai sentito, se eri fuori non hai sentito, no. 4 volte, 4 chiamate ho fatto. Non mi ha risposto nessuno, boh, hai detto, vabbè, e 3 anni dopo ho fatto. No, allora sicuramente hai chiamato quando ero fuori nel poggiolo seduto al fresco. Beh, dove eri oggi? A mare? No, non ci sono sceso. Oh, ci sono sceso a farmi un giro, grugane appresso. Me ne appieno la macchina di bere. Ah. E oggi era bella giornata di mare, da. O c'era quel venticello, magari forse era un po' agitato il mare. Stamattina sono sceso io a Porto Torrege con il cane, ma il mare era bello, solo che c'era quel venticello fresco c'era. Magari a una certa ora con quel caldo forse non si intendia, però c'era quel venticello fresco. Infatti c'era la vietta fresca. Ma ci vai. No, io ero in campagna, così che si stava veramente bene, dai. C'era quell'arietta per cui piaceva anche, dai. Infatti, quell'arietta lì già piace, mi ha dato. Bisogna scenderci e stare al posto al fresco. Beh, adesso si può scendere. E come? Se oggi è una bellissima giornata, per cui non c'era né caldo né freddo, per cui si stava veramente bene, dai. E magari c'è la veranda lì, dai. C'è la veranda, passa l'arietta lì, e per cui si sta veramente bene. Appetito più. Se fa mangiare bisogna lasciarla un abbati, che bisogna essere un po' a dieta. Ehi, ma quando c'è fame, se c'hai fame è chiaro che devi mangiare pure, no? Non dico esagerare, ma bisogna mangiare anche. Infatti. Però non sta sempre in maniera che se no da voi diventiamo una gubba. Io dovrei discendere almeno 2 o 3 kg, dovrei scenderle. Chissà che ci riesco a fare diminuire il lecca, perché è troppo. Bisogna stare a dieta un pochettino, bisogna stare. Chi ci riesce, boh, oh, yeah, provato, ma mi sembra che la questione non è tanto facile. Non è tanto facile. E Sciarbacchiso non l'hai sentito? Per nulla, per niente l'ho sentito, né ieri né oggi. A me mi sembra che quello lì si sta dando la fatta gioia in campagna, a faccia nostra. Sì, vabbè. Già sarà de gozo. Quello che deve fare, sta sempre facendo. Non basta quello che fa in campagna, deve fare anche in casa, quello è fatto. Sì, vabbè, casa ci sarà con te ancora in sugavo, non lo so, boh. Vediamo, catti di vivoni, ma appena appunto il sugavo. Sì, quando sarà non aveva gana manco di famiglia. Magari certe volte tutto il giorno lavorando in campagna. Da voi sarà a casa e non ce n'hai voglia, è chiaro che la questione non è stata facile. Uno che lavora tutto il giorno in campagna e poi quando sale, fa bene, si riposa, già lavora durante il giorno. Infatti, a fare così bisogna fare. Sì, no, hai ragione. Bisogna produrre, bisogna produrre. Sì, vabbè, bisogna produrre. Io ho già fatto, quindi non me ne accorgo più nulla. Ho fatto 3 o 4 chiamate a campagna, non c'era un'anima, propagazione c'era, c'era un po' di propagazione, però i sassi erano vera, manco un'anima. Su, meno che Bari Muscia, Bari, la cosa mi fosse centro di guida, già sentiamo, ma la domenica, Io infatti stamattina l'ho acceso, ho fatto un paio di chiamate e l'ho lasciato acceso. Però stavo ascoltando, ma c'era gente di fuori, però un sassaro c'era, manco un'anima. Allora verso gli 11 l'ho spento e ho detto sì, e ha cominciato a fare fuoco. Quando sei in campagna sta bene, si cucina quello che si può e si sta benissimo. Purtroppo io non naggio e non me ne ha fatto più nulla. Poi è un altro lavoro a campagna, sembra così, ma è un lavoro, certo. E sempre soldi ci vogliono, ci vogliono sempre soldi. Il lavoro non finisce mai. Tutti i giorni c'è una cosa da fare, così che è meglio così, almeno sei tranquillo tu. Sì, la via Uda l'abbiamo fatta dentro di guida, lo sabato della domenica me l'ho rifugiato. Senz'altro. Me l'ho buttato a travagliare lo sabato della domenica, me l'ho rifugiato e oggi non ho fatto niente. Perché c'avevo ospiti, per cui non ho fatto proprio niente, nulla, anzi, c'avevo il motocoltivatore dall'altro giorno che avevo molto zappato, era tutto polvere, era bianco dallo biuvaro e non avevo pulito la sera. Allora stamattina, quando appena sono sceso, ho attaccato il compressore, tutto bello lucidato, asciugato, pronto per la prossima triolata. Quello solo ho fatto, sono pulito il motocoltivatore e basta. Sì, è fatto bene così, l'ho lasciato pulito. Alla prossima volta ad operarlo. Sporco non si può lasciare, no? No, è sempre pulito, sembra nuovo, e ce l'ho 30 anni più, e sembra nuovo ancora, al primo colpo parte. Infatti è così che vuole, che deve partire al primo colpo, deve partire, deve essere sempre in buone condizioni. Io ci tengo, quando c'è da cambiare l'olio, lo cambio e non sto a perdere tempo. Io faccio magari la faccio due volte, molto zappo, dopo lo pulisco e cambio l'olio. Infatti adesso che ho molto zappato, lo devo, che ho pulito, adesso una di queste sere ci scendo, mi cambio l'olio e rimane perfetto, pronto per la prossima volta, capito? Ho pulito i filtri, così che quello dell'olio e quello dell'aria, per cui no, è sempre perfetto, grazie a Dio, non mi ha dato mai fastidio. Bisogna fare, sempre in cosa, in movimento, pulito e sempre andendo. Quando lo metti in marcia parte subito, per cui non ci sono problemi, capito? No, io lo tengo bene, non gli sta a battere di lungo a baedro, quando sta a cambiare la candela gliela cambia, anzi io ho due o tre nuovi di scorta, per cui è sempre nuova. E parte per quello, perché ci tengo, ecco. Infatti bisogna stare sempre allerta, a fare i gosi, ma tiene sempre pulito, in ordine, tutto quanto funziona sempre. Ehi. Vedo un po' attento, c'è orba Chisio. Ah, Chisio. Non sarà in fitta, no? Dacci pure magari, che era con la famiglia in campagna. conosco una parecchio, magari e ancora sono lì. Adesso c'è la merenda, cos'è l'altro, ci passa l'ora. Se ne ha fatto così bisogna fare, che non viene. Manzano, a Piazza dei Cigni, si fa una passeggiata, si fa che cosa che mi devo pigliare, la piglio e ammazzo la Manzano così. Infatti, bisogna fare così, bisogna fare un giretto, mandando una durrata, una baldata e via. E perché sembra così in me? Certe volte non ti serve niente, magari si è per fatto una passeggiata così, e invece magari vede qualcosa che ti interessa e te la prendi. Infatti, bisogna guardare intanto cosa ci serve, cosa non ci serve. E tu stamattina il barchino non era acceso? No, no, sono tornato che era mezzogiorno passato, tra una cosa e l'altra, è tutto. E no, non l'ho neanche toccato, ho acceso un mio, verso le 6 meno un quarto quando l'ho acceso. E io l'ho acceso fino a... sono le 11, le 11 e qualcosa, dopo c'è venuta gente, allora è chiaro che ho aperto tutto e c'era sempre lo sero, quasi tutta la mattina la sera accesa. E stasera ci abbiamo guardato due partite, ci abbiamo guardato, adesso stanotte alle 8 ce n'è un'altra e ce lo guardiamo ugualmente. La fine delle... della Germania coso, Germania Messico mi pare, mi ha già bailato. Germania Messico, quello pure ha vinto in Messico 1-0. E l'ultima partita, la metà della partita l'ho vista qua, la finale l'ho vista qua, perché me ne sono andato quando è iniziato il secondo tempo, dopo mi sono fatto la doccia, questo e l'altro, ho visto solo la finale, però ho visto che hanno vinto 1-0 in Messico. Sì, no, io ho visto la fine, ho visto quasi. Un pezzo della fine, all'ottantesimo tempo a giudizio. Poi ci sono molti accaniti sportivi, quando c'è qualche partita io non è che ci tengo, certo che magari è così, qualche partita internazionale me la guardo, ma se non è che partita nostra è così, non ne guardo mai, guardo solo le partite internazionali, capito? Solo quelle guardo. Però se c'è qualche film più bello, magari allora io mi guardo i film e la partita non la guardo. Magari ogni tanto giro, guardo, capito? Infatti, io ho guardato solo la fine, non per il giro, a Custeni e a Baidemi, va via. Chi è? Avanti, chi è? No, oh, sono da casa. E ha fatto intendere un bip. C'è entrato e boh. Niente radio, io abbaia, e ti sentiamo, ci abbaia. Signor Marchisio, tu sei con il bip, da davanti, no, non vuoi entrare bip. Marchis, sei tu dai, fatti due colpi. No, non è lui allora. Infatti non è lui. E c'è detto però. Signor Marchisio. Sì, basso sì, un bel basso. Basta un volume, ma intenditi. Passi. Dall'altra tomba mi sei scendi. Adesso vai bene, visto che ti sente Gio Maria. Gio Maria, lo ascolti. fallo abbaiare, avanti, c'è un bacchino, buonasera. Avvoglio lì, io lo sento. Ah, ti accoppio, bacchino, tranquillo. Sì, è vero, certo. Io non l'ho chiamato, ho trovato la chiamata ieri sera. Mi sei dimenticato di chiamarti, eh. Sì, ma tanto se mi chiamavi no, non ti voglio rispondere. Anche se sei rientrato d'aglio. Ma io ci sei andato. Sì, no, non proprio. Ma chiesti? Vabbè, a cosa direi che s'antenna? Ragazzi, non mi hanno dato le balle adesso. E dopo lo volando poco fa, lo fa una cosa, all'antenna grande mettigli un altro attacco e lo fai scendere giù, commuti con un commutatore, cambi direttamente. Dentro la canaletta, eh. Ma sono tutto con questo cavo grosso, ma che va giù io? Cavo grosso, va giù, lo si muove lungo, cavo grosso è così 8. Ma il risultato non lo tolgo, perché non rompo niente di palle, ragazzi. Non si muove la carne parata, si dovrà scendere il barro lungo. Infatti quello grosso è troppo ingombrante. Sì, ce l'avevo un rotolo, è usato, capito? Un po' della San Marino, un po' l'ho usato io. Sì, 155 conviene, Bacchi. E quello è c'ha doppia scarmatura, per il 155 che è buonissimo e dentro la canaletta ci sta. La canaletta ci passa nel 58 lo chiamo, c'è un'altra sigla, infatti, insomma, non riusciamo a fare una cosa come si deve, dai. Sì, 155 costa un bel, scusate se lo fate pagare un bel, va, se lo fate pagare. No, lo stesso come prima, no, non te ne fa pagare di più. No, è aumentato, perché gli ho chiesto io, è aumentato più dell'altra volta. 158, però ma quanti metri te ne servono, Bacchi? No, quanti metri cavo ti serve per metterlo nuovo? Non lo so, ho capito. E bisogna che lo misura per saperlo, Giomari. Ah. No, perché mi dovrebbe fare un pezzo buono a me, usarlo, dai. Eventualmente misura per quanto te ne serve, ma non lo so Germani perché fa scende l'antenna, scende, gira sul parapetto del terrazzo, fa tutto il terrazzo, poi sale e lo sale dentro, non so più cosa sono io adesso, non lo so prima se mi dà chilometro cosa un metro alle misure. Bisogna prendere le misure giuste per non incappare magari a essere più corto, capito? Se è più lungo va bene, ma se è più corto magari aggiungerlo non va bene. Se ti viene bene lo misure e poi me lo dici a vedere un po' quanto mi fa. Ci saranno 25 metri. Sì, sì. Ma non mi ricordo adesso, domani, la verità. Bisogna avere misure per saperlo. Bisogna sapere una cosa su per giù, da meglio in più che in me, in manco. Vedo un po' tu, da, ma che... Allora, funziona un po'. Sì, avanti, avanti. Bisogna andare sempre avanti, bisogna andare. Stracera l'ho sentito nel PMR, ha detto che questa settimana dice che piazzava tutto, metteva tutto quanto su, piano piano e se la piazzava. No, in PMR l'ho sentito, mi pare che sia mercoledì o giovedì, mi sembra che l'ho sentito. Venerdì l'ho sentito, mia Graziano, venerdì l'ho sentito. C'era anche Gio Maria, Gio Maria non so se l'hai ascoltato a Graziano venerdì. Ma era in PMR, era in PMR, cioè che stava 27 evidentemente, magari comportarsi a livelli più bene, magari perché un oggetto magari piccolo e se lo puoi spostare da una parte all'altra, mentre invece la 27 non puoi spostarlo da una parte all'altra e dove ti dica. E dice, oh, non ha giocato, sta attaccando, ormai va giù chiuso e non riesce, non lo capita chissà frase, dai. Ma ve l'ha giudito di comprarsi nessuno della 27, che quasi tutti sono in 27, già. E oh, baido, ma dice. Va via, casa mia 3 o 4, usa. E abbiamo comprato baracchini, via. Ciao, via, se vuoi entrare. Portatele, non è a... Portatele non ne ha della musica, dagli ti compara a Ciro che già rovendono. C'è l'altro più grande anche. Ma il Mildrand è piccolo, è la batteria che ce ne sono due tipi di batterie, una grande e una piccola. È capito? Vanno bene tutte e due, se bigliano di ghici. Vuol dire che non è interessato a proseguire, capito? Il 27, se no sarebbe entrato. Evidentemente c'è qualche cosa che gli impedisce di poter fare, ecco, tutto lì. Sì, guardi a lui, se vuole entrare a fare compagnia è buono, se no se rimane gallo bue. Io già fa vedo, ma chi già sapeva vedere, già fa vedere, tu se va a vedere, dici che tu canile gli ha visto. Preoccupazione non venne, quindi, a Puglia. Se lo fai, non lo vedo, è ben 10 centimetri per 12, e quindi è più grande la sedia. Tu devi essere una cavaletta per poco si vede. Ah, vai detto. Va bene, dai, io chiedo, dai. Sono già le 8 subito, meno 5, però chiedo, dai. Ci sentiamo domani se Dio vuole, dai. Buon proseguimento, saluto in casa. Ed avviatore, riprendo, vi ascolto per il finale, chiedo, dai. Buon proseguimento, ti tratta a tutti e due. Sì, ok, Giovanni, ci sentiamo alle prossime. Ok, magari domani. Ciao Giovanni, riprendo. Buonasera Giovanni, sono in casa, è cambiato tutto. Buonasera, a domani c'è tutto consiglio. Buonanotte, avanti c'è il sole. Cosa me la racconta? Che cosa vuoi ti racconto? Cosa vuoi che ti racconti? Siamo senza vannuda, è cosa? Mi sono mangiato regato rugani in giro. Sono sceso a Porto Torre, mi ha giocato un giro. Benissimo. Oh, ho comprato i miei raggi il sabato, però volevo parare oggi, ma ho detto, ma vi sarà vento, boh. E invece no, non mi sono parato. Ma se mi ha detto Rugani e mi sono parato. Ma ho fatto un giro umano a Rugani. Sì, tanto cosa vuoi forse. Adesso ci provo domenica, se è buono ci provo domenica a uscire. E poi alle domeniche di luglio cominciamo a andare a mare. Beh, è già finito, tanto mi arrivo in spiaggia a quarto pettine, solo in civi posso andare. Perché noi andiamo a crescere, infatti io arrivo ombrellino a giugno, arrivo ombrellino se ne sta giocando a Rovrecu, se ne sta giù ed io me ne salgo nell'altro con ombrelloni. Quest'anno inizierò a fine settembre, inizierò che meglio. Infatti, non me ne caghi bene, esco, faceva un giro a vedere se funzionava e poi lo rimetto in garage e lo adopero a fine settembre. Da settembre in su, da. È un po' caldo, l'ambiente si è ritirato. Infatti, un ambiente caldo e tutto. E si arma qui, io mi rilascio in spiaggia. E si muove. Perché si vede la spiaggia, no? Sì, così almeno lo faccio stancare e arma con la notte rimane più tratto, rimane. Sì, non ve ne bisogno, no, basta che piglia un bel poco di gas, vedete, a posto. Oh, torna a due. Chi è? Chi è là, pastore? Oi, ma sei che squillante che fai, c'è gira? Ma sei che è là, pastore? Chi fa, pastore? Chi è all'acqua? Che mala sorte, io. Pensa un po' come ti gini. Aspetta che per la cintura, aspetta. Sì, piglia la cintura. Hai comprato a giocare le bacchi lì? Oh, non c'è la pianeta. Mi pare. Luca! Ti dà voce squillante, che fai? Oh, io, a marire, io. Tu di là Romagno, sì? Il compagno dell'anno. Vabbè. Il compagno di... Dai, vabbè, la prima acqua che prendi in giugno. La scusità da Macuto. Si prende Luca. Dai, fai bene, dai, dai. Ok, ci sentiamo Luca. Sì. Anche se la moglie si arrabbia. Quindi dunque ti saluto, buona serata, buona serata a nostro caro, se così mi sentiamo ancora. E io ho fatto un bacchiglio che va a prendere il vicino di nazionale. Va bene ancora? Sì, è così. E ho buro già tra poco. Faccio la stessa cosa. Sì, ok, ciao Luca. Noi prendi ma... Sì, purtroppo bisogna fare piano piano. Adesso faccio di quella maniera io. Domenica a Varo e Brubru ci andate, ci funzionava, e poi dall'altra mi sta fammi far male la domenica. Quindi ci sto un po' di ore e poi me ne risalgo qui. Quindi ti fermate la volta. Va benissimo. Infatti bisogna fare così, bisogna fare, sennò lo porti a preso e lo metti in spiaggia sotto l'ombrellino suo e noi mettiamo gli altri ombrelloni, che sennò lui si allontana e invece lui rimane al fresco, rimane lì. Sì, si allontana, ecco cos'è, si allontana, invece gli anelli addo non si allontana nessuno. Si può dire che se lo si è raccolto, se lo si è raccolto, se lo si è raccolto, e fa la cucciaia. Sì, il fatto è che se gli metto un picchetto si butta, un picchetto si butta. Che ribonghi un coso, una attaccata dove c'è quei cosi in palo di coso. Quei pali li hanno messo loro. E quelli non li porta via. Però lì lo leggo con l'ombrellone. Si è approvato a punirlo. Oggi si è approvato a mettere il picchetto, ma non ho nulla da fare, non riesce a farlo tenere. Il fatto è che non ci rimane, invece gli metti l'ombrellone attaccato con la corda, attaccato al coso e vedi che già rimane qui. Basta che c'abbia l'acqua. Vabbè, ma chi? A me mi giocciamenti, ci sentiamo alle prossime. Ok, ciao Bacchi, ci sentiamo domani magari. Ciao ciao.